io sono uno storico adenatico, di formazione adenatica, e così ho cominciato qualche anno fa a occuparmi della storia anche della matematica nell'ambito dell'Università di Ferrara. Questo perché mi appariva che piuttosto che diciamo approfondimenti di tipo di approfondimenti di tipo epistemologico per studiare la vera, diciamo, il vero sviluppo della storia, intendo queste parole, della matematica in Italia, bisognasse studiare piuttosto che le aspetti istituzionali, e quindi partire da concreto l'Università di Ferrara, che peraltro, mentre per gli studi giuridici, per gli studi medici, aveva avuto degli storici anche importanti, quella parte che riguardava la matematica non aveva stato mai studiato, nonostante che già così nel 400 ci sono state delle letture importanti. Ecco, studiando appunto la storia della matematica nell'Università di Ferrara, a un certo punto è venuta fuori la formazione degli ingegneri, cioè è venuto fuori chiaro che l'articolazione degli insegnamenti non era una realtà diretta a formare dei professori di matematica che ancora all'inizio del secolo venivano limitati senza laurea specifica, ma affrontata dagli ingegneri. Ora, per questo Ferrara è un po' all'avanguardia, perché? Perché avendo un territorio esclusivamente pianeggiato e appunto con il fiume più grande che lo costeggia, il Po, e con un fiume molto importante che è stato a terra dal punto di vista della regione idraulica, il Reno, della sua base determinata, parte poi quasi tutto il territorio basso. Questo faceva sì che la formazione di ingegneri, che non parlo di costruttori, cioè di ingegneri nel senso di architetti, ma di ingegneri del territorio, cioè proprio di ingegneri idraulici, era un problema molto sentito. Tanto è vero che già nel 500 c'era un'organizzazione autonoma che si chiamava i Lavorieri, che aveva una sua struttura, che prevedeva anche al vertice di questa struttura un certo numero di. Quindi in qualche modo localmente a Ferrara era presente già nel 500 un piccolo corpo di ingegneri alle dipendenze comunali, per cui si pose già nel 600 il problema della formazione. A questo problema si rispose poi nella metà del 700 con una riforma dell'università, nota come riforma di Minardi, che portò nel breve giro di pochi anni da una a tre cattedre di matematica, con un'articolazione poi pluriennale di studi. E quindi non si concludeva con una laurea in ingegneria, perché appunto le lauree in ingegneria non esistono nelle università prima del periodo napoleonico, in quanto diciamo ci sono le corporazioni, collegi professionali che resistono fortemente, che resistono all'introduzione di nuovi sbocchi professionali, di nuove lauree, ecco, ma ha una formazione di base di quelli che poi erano i tecnici comunali. Quindi negli statuti del Settecento si recepisce il fatto che bisogna aver fatto dei corsi universitari per diventare notari, giudici d'arte. Quindi questo qui è un po' un quadro in cui. Ecco, all'interno appunto di questa ricerca, questo lavoro del 1986, è intitolato l'Università e le scuole per gli ingegneri di Ferrara, che ho scritto in collaborazione con la dottoressa Fiocca, ne ho un paio di copie perché volesse, perché è molto interessante, ve lo posso dare. La fase successiva è stata invece lo studio della formazione degli ingegneri nel periodo napoleonico. E questo anche qui un po' motivato da esigenze locali, nel senso che studiando appunto questa fase di formazione degli ingegneri, mentre era ben chiaro quello che succedeva nel Settecento e anche dopo il 1824 con la riforma dell'istruzione negli stati pontifici, e le cose erano molto confuse in questo periodo precedente, cioè i documenti mancavano, c'erano documenti parziali che erano difficili. E allora appunto è qui l'esigenza, che a un certo punto si chiederà il chiamamento che io ho cercato di seguire, di passare da quello che è, diciamo, lo studio della matematica in università allo studio del sistema universitario, perché nel periodo napoleonico, cioè, non bisogna aspettare l'unità d'Italia per dover studiare i sistemi universitari, cioè con la, ci serviva poi il regno unitario, soprattutto la Repubblica Italiana, se si vuole capire che cosa succede anche in una singola università, bisogna studiare il sistema universitario della Repubblica. Da questo punto di vista, insomma, è lì che c'è la prima riforma dell'insegnamento del 1802, che legittima completamente la formazione nell'ambito universitario degli ingegneri con una facoltà chiamata matematica, ma in realtà, diciamo, dedicata all'insegnamento, alla formazione degli ingegneri. Ingegneri che poi sono divisi in tre classi, perché parliamo specificamente di ingegneri, dobbiamo parlare piuttosto di architetti e ingegneri, ma meglio, diciamo, i tre profili professionali sono questi: il perito albedizzone, per cui è richiesto un corso di studi biennale, dell'architetto, per cui è richiesto un corso di studi di base biennale, più un periodo di specializzazione presso gli architetti abilitati, e una terza figura che è quello dell'ingegnere. Ecco, l'ingegnere qui erano richiesti lavori di progettazione generale, quindi in particolare di tipo idraulico. Quindi sono tre le figure professionali che sono. Ecco, nel Regno d'Italia, ecco, si verifica anche una cosa piuttosto importante, che è quella della creazione di un corpo di ingegneri. Corpo di ingegneri, che appunto crea poi le premesse per la creazione di una scuola per questo corpo, cosa che si realizzerà, cioè si realizzerà sul piano istituzionale, non sul piano pratico, perché mentre il corpo degli ingegneri di Acqua e Strada del 1806 viene effettivamente varato e prevede un organico di un centinaio di persone, bene, per cui è richiesto studi nelle università, invece la scuola viene deliberata nel 1807, la scuola delle Acque e Strade, si fanno anche, si decide quale deve essere la sede, nella zona di Brera a Milano, però la scuola di Acque e Strade non decolla, cioè non viene mai istituita. Ci sono addirittura i programmi, ecco, io ho trovato nell'archivio dell'Università di Padova i programmi che ho pubblicato in questo lavoro, che è stato poi, diciamo, propiziato da una conferenza che ho fatto qui l'anno scorso, dove appunto mi sembrava che mi chiedessero di scrivere un po' questa parte, che pur essendo sopravvenute delle pubblicazioni abbastanza importanti in questo periodo, per esempio che ho pubblicato, l'ho visto solo recentemente, però ecco, questa parte sulla formazione non è coperta neanche da queste pubblicazioni più recenti, e quindi, insomma, diciamo, questo lavoro allora qui le cose si intrecciano nuovamente con la mia pratica, la storia della scienza, che ogni tanto, insomma, quindi sto allontanando troppo dal seminario, devo ritornare un po' alle cose che mi interessano di più. Se non che cosa succede? Succede che appunto in questo periodo, grazie alla formazione di questo corpo, noi abbiamo per la prima volta che questo nucleo di ingegneri costituisce poi la base, possiamo dire, il nucleo principale di quello che è una prima comunità scientifica laica di matematici. Quindi in qualche modo su questa base cominciano a esserci, diciamo, decine di posti, ecco, che permettono di vivere, cosa che non sempre consentivano gli stipendi dei professori anche nel secolo precedente, anche nel Settecento, anche dopo le riforme settecentesche, non era raro che ci fossero stipendi tali da poter permettere di vivere, diciamo, con una famiglia, con un professore che non occupasse una delle cattedre principali. E in questo caso invece abbiamo degli stipendi importanti, dei funzionari statali, e quindi adatti a persone che hanno la cultura matematica, che spesso hanno anche prodotto anche delle ricerche. Allora, quindi sono stato incoraggiato a non abbandonare questo tipo di studi da questo luogo di scontro. In qualche modo, studiando Pierre Ingegneri, venivo a fare una specie di elenco anche di quasi tutti quelli che erano in matematici. Non solo però i legami tra l'Istituto Nazionale e appunto la scuola, il corpo di acqua e strade, erano molti, non so, Paradisi, per esempio, che divenne poi presidente, lo stesso, che presidente, Brunacci, eccetera. Si possono fare molti nomi, non solo, anzi forse i matematici, cioè quelli che hanno dato dei contributi disciplinari rilevanti nel campo della matematica, li troviamo di più, come dice, aspettarsi, nell'ambito proprio del gruppo dirigente di questo corpo e di questa scuola. Ecco, allora, così il corpo porta alla creazione del corpo e di una scuola che non è dentro l'università, questa scuola di progettata non è dentro l'università. E quindi probabilmente uno dei motivi dell'insuccesso di questa scuola è dovuto al fatto all'opposizione, questo non l'ho studiato fino in fondo, ma è, penso che sia dovuto all'opposizione del corpo accademico. Anche se è difficile trovare documenti diretti che comprovano questo fatto, e devo dire che però sarebbe stato, voglio dire, l'unica scuola, perché medicina si faceva dentro l'università, la giurisprudenza si continuava a fare dentro l'università, ecco, sarebbe stata l'unica scuola strutturata che si faceva fuori l'università. Naturalmente si accettava che si facesse un periodo di specializzazione presso i vari singoli ingegneri, i cosiddetti abilitati, c'era disponibile un elenco in prefettura, però avere una scuola con insegnanti che c'era fuori l'università era un po' un'anomalia rispetto al sistema universitario. Un'anomalia che però aveva un precedente illustre in Francia. E diciamo la Francia aveva fornito questo modello, il modello di tante istituzioni, il codice civile. Ma le stesse costituzioni delle repubbliche erano in gran parte modellate sulla costituzione prima repubblica, ci Cesarini, Cesarini, Romani, sia pure con delle varianti tra di loro, però ricalcavano molto da vicino la costituzione dell'anno terzo, la costituzione del 1795. Ecco, allora, per questo motivo ho cercato anche di vedere com'è appunto questa trasmissione del modello francese, che si vede che poi funziona fino a un certo punto. E allora il discorso si è spinto un po' più indietro, cioè invece il periodo decisivo, invece che essere 1806 eccetera, diventava il 1796-1798, cioè il primo niente. Perché? Perché in questo periodo, tra l'altro, venire era in Italia il fondatore del Gaspard Monge, che appunto venne in Italia nel maggio 1796, lasciò l'Italia per consegnare insieme al generale Berthier, capo di Stato Maggiore dell'Armata d'Italia, il Trattato di Campoforno, quindi lui assistette, anzi Napoleone, nell'ultima fase proprio di passariato in cui si negoziava con l'imperatore. E appunto in questa fase, tra l'altro, è documentato il primo interesse di Napoleone concreto per la campagna d'Egitto, perché appunto si vede che Napoleone si procura un certo numero di libri nelle biblioteche di Venezia che riguardano proprio l'Egitto e l'Egitto. Ecco, e poi Monge ritorna di nuovo in Italia. Ritorna in Italia dopo qualche mese per organizzare la Repubblica Romana, perché appunto in seguito appunto all'omicidio, all'assassinio del generale Dufour, appunto, da parte di un milite pontificio nel dicembre del 1798, appunto, questo fornisce l'occasione per invadere gli stati, la parte residua degli stati romani. Quindi per occupare militarmente la stessa Antangelo, disarmare la milizia pontificia e consentire a un gruppo di democratici, diciamo così, tra virgolette, romani, che già si erano manifestati precedentemente, di proclamare la Repubblica Romana, cosa che viene fatta il 15 febbraio del 1798, la più buona del 1796. Allora il Monge è incaricato di, cioè non ha una funzione precisa, ma insieme con Donù, che era l'autore della Costituzione dell'anno terzo, quindi un giurista, e Florent, che era un diplomatico, è incaricato in sostanza di dare la Costituzione della Repubblica Romana e di creare gli organi dirigenti della Repubblica Romana, cioè di reclutare tutto quanto il personale delle varie strutture che vengono nominati in una prima fase anche gli stessi diciamo, rappresentanti, gli stessi deputati, senatori. Questo senza avere un'investitura precisa, nel senso che tutti i documenti poi vengono firmati dal generale in capo a Roma, comandante della Quindi diciamo, loro ufficialmente non hanno nessun compito preciso, però in realtà diciamo, i protocolli segreti dicono che loro devono essere e quindi Monge va a Roma e si mette a lavorare. Monge è molto efficiente come persona, basta pensare che il viaggio che poi fa insieme a Bonaparte per l'Egitto, si ferma una settimana a Malta e in una settimana riforma il sistema della pubblica istruzione di Malta, creando la scuola centrale, non so, 15 scuole primarie, invitando alcuni professori studenti della scuola politecnica a fare professori, cioè tale quale. E quindi Monge si accinge con molto impegno a questo lavoro. Quindi recluta il personale, crea un istituto nazionale. Quindi diciamo la Repubblica Romana ha un istituto nazionale, che è una delle cose che poi tutto sommato funzionano bene, le difficoltà gravi con cui si agita. E nell'ambito di questo istituto nazionale vengono poi proposti dei piani di pubblica istruzione, quindi un piano per la scuola secondaria, anzi nella Costituzione c'è scritto che l'istituto nazionale è incaricato di creare di fare i piani per la pubblica istruzione e che se questi piani non vengono presentati entro non so 4 mesi l'istituto decade, quindi c'è piena decadenza. Ecco, ma l'istituto si mette al lavoro quindi, e completa questi piani che sono stampati. A noi interessa, ecco, il piano che riguarda le scuole superiori, perché questo piano è differente. Viene elaborato quindi nel periodo che va diciamo da marzo, aprile all'agosto, settembre del 1798 e quindi è praticamente contemporaneo del piano Mascheroni della Repubblica Cisalpina e anche del piano della pubblica istruzione della Repubblica Ebraica. Quindi ci sono in questo periodo questi piani. Ecco, il piano come è articolato? È un compromesso, diciamo, cioè il piano Mascheroni, voi sapete che ha questa caratteristica di fondo, cioè il piano della commissione incaricata della riforma della pubblica istruzione della Repubblica Cisalpina, che porta il nome appunto di Lorenzo Mascheroni, ha questa caratteristica di fondo, cioè sì, non recepisce il modello francese delle scuole centrali. Ma mantiene le università come nucleo dell'educazione superiore. E naturalmente c'è un dibattito, per esempio c'è tanto compagnoni che pensano che invece bisogna prendere il modello delle scuole centrali e creare un istituto dedicato alla sola ricerca, quindi il modello francese, ma questo modello è battuto in commissione. e come trasformazione dell'istituto borghese e il mantenimento delle università di Pavia e di Bologna come sedi dell'istruzione superiore, anche se non vengono chiamate università, ma vengono denominate scuole di approvazione, quindi si cambia il nome. Però nel piano Mascheroni ci sono quattro facoltà. Queste quattro facoltà corrispondono alle due antiche facoltà, che sono quella di giurista e di medicina, e due nuove facoltà. Una facoltà che nascono da Costa, diciamo, dell'antica facoltà di medicina. Una facoltà di lettere, di filosofia, diciamo, e una facoltà di matematica. La facoltà matematica è diretta alla formazione principalmente degli ingegneri, la facoltà di lettere è diretta alla formazione. E poi dovremmo essere utilizzati anche questi nel sistema amministrativo, che non sono tipo le biblioteche, licei, no? Che dovrebbero essere creati da altre scuole di istruzione superiore. Si pensava appunto che dovesse fornire questo. Ecco, questo ecco, mentre viene abolita la facoltà di abolizione, questa viene una costante di i piani di questo periodo. Ecco, invece il piano della Repubblica Romana è una via di mezzo, diciamo, tra il modello delle scuole centrali e il modello cittadino. Il modello cesarpino, guarda, spesso ci sono secondo me, delle interpretazioni sbagliate, perché dicono, insomma, Mascheroni, la commissione la chiamano la commissione dei professori universitari, perché era fatta quasi tutta dai professori universitari, questa commissione Mascheroni, e dicono che in sostanza, anche sulla base di qualche documento così immaginato, inviso, che non fanno altro che adottare il modello dell'università di Pavia, tanto perché appunto qui si tratta di un piano generale di pubblica istruzione, non è che si riformano solo le università. Quindi c'è, invece l'Università di Pavia nel 700 non era stata riformata nell'ambito di un piano generale. Qui c'è un'unica legge che comprende tutte quante. E poi dopo ci sono dentro, c'è appunto anche l'articolazione di facoltà che in parte nuova. Non solo però i collegi dottorali, appunto, che fanno parte poi del tanto in modo feudale dell'antico regime, e che come tali non sono scardinati di per sé, possono essere scardinati quando appunto tutta la struttura feudale viene messa fuori gioco in questo periodo. E questo naturalmente consente anche la buona abolizione dei collegi. Poi di fatto le cose nelle singole università proseguono abbastanza così. Normalmente senza queste leggi siano completamente attuate, salvo che però mese, due anni dopo è a questo che si fa riferimento. Quindi è vero che questo piano Mascheroni rimane sulla carta, però è quello che poi dopo condiziona, anche per le persone che ne fanno parte, massicciamente i piani che vengono poi effettivamente attuati. E tra cui per esempio la parte della facoltà matematica passa a parlare. Invece la parte della facoltà di lettere scompare. Dietro viene smembrata, non rimane nel piano del 1802, in gran parte viene assorbita dalla facoltà giuridica, in piccola parte, cioè le cose che riguardavano il disegno, eccetera, viene assorbita dalla facoltà matematica. Allora, vi dicevo il piano della Repubblica Romana, insomma, sì. Adesso ancora. Allora, il piano della Repubblica Romana. Il piano della Repubblica Romana comprende intanto, ecco, volevo dire una cosa importante, cioè il piano Mascheroni fu avversato non solo perché volevano un modello più democratico, dicevano, vicino al modello francese, ma anche per la resistenza delle piccole università, perché il piano Mascheroni prevedeva la soppressione dell'Università di Padova e di Bologna e di Modena, ecco, di fatto, no? Perché appunto le due università restano. Invece gli altri, dicendo di preferire il modello francese delle scuole centrali, in realtà difendevano le piccole università, perché era possibile, sulla base del modello delle scuole centrali, mantenere tutto come si trovava dove c'erano le piccole università, e non solo, ma anche crearne delle altre in posti che avevano così anche un interesse ad avere, a mostrare che col cambiamento delle cose, insomma, alcune cose andavano meglio, no? Si pensa, non so, Reggio, se si pensa a che erano stati così vivaci in questo periodo, in questo primo periodo, e anche città minori della Lombardia, ecco, e le città anche della, che facevano parte dell'antica Repubblica di Venezia, Brescia, Bergamo, pure erano stati molto vivaci. Quindi diciamo il piano d'angolo, cioè il modello delle scuole centrali, in realtà avvantaggiava queste spinte localistiche, oltre a presentarsi, come dire, più uniforme anche oggi. Quindi è piuttosto importante che questo piano viene rigettato, che viene, che invece prevale appunto una in qualche modo una riforma delle università con la soppressione di alcune università, che concretamente cambiava di più il piano Mascheroni di quello che cambiava il piano Lanza. E non solo, però viene rigettato questo modello francese per quello che riguarda le istituzioni educative italiane, no? Quindi, e questo è un punto importante, perché diciamo, tra quelle istituzioni che hanno più autonomia anche in questo periodo rispetto a quelle francesi, ci sono proprio queste delle istituzioni. Cioè, allora, la Repubblica Romana invece Monge fa passare un sistema di scuole centrali. Quindi vengono create le cosiddette scuole politecniche dei capoluoghi di dipartimento. Ecco, però è interessante che il termine politecnico entra per la prima volta in Italia, appunto in questo piano della Repubblica Romana del 1790. Queste prevedono, sono divise in classi, comunque belle lettere, filosofia, matematica, scienze naturali e medicina. Si accede oltre i 15 anni dopo aver fatto delle scuole di capocantone. La durata dei corsi sono di 3 anni per medicina, 3 anni per chirurgia e farmacia e 2 anni più 1 per ingegneria. Ecco, però, appunto, anche l'Università di Roma in qualche modo viene mantenuta, perché oltre ad esserci queste scuole politecniche dei capoluoghi, rimane a Roma la scuola politecnica centrale, che è la trasformazione dell'Università di Roma. Appunto, con una classe di scienze matematiche, una di scienze naturali con 6 cattedre, di matematica 7 cattedre, e belle lettere 8 cattedre, filosofia e diritto 9 cattedre, medicina 12 cattedre. Ecco, quindi il modello della già nel tempo delle repubbliche giacobine, diciamo così, e il modello della Repubblica Romana è il più affine al modello francese. Allora, che cosa succede dopo? Vengo ora, diciamo, al cuore di quello che è la mia relazione di oggi. Ecco, è che su questa base, appunto, si possono anche leggere quello che succede dopo la restaurazione, quindi nel periodo tra. Che cosa succede intanto prima? Il Papa ovviamente rientra a Roma, dopo il triennio giacobino, e vi rimane per alcuni anni. Dopo invece viene, appunto, Roma viene annessa nel 1808, mi pare, alla Repubblica Francese, diventa uno dei dipartimenti, e quindi Roma segue il modello francese. L'8 al 14 studenti fanno parte, cioè, quindi c'è il modello. Il Papa viene poi riportato a Fontainebleau e rimane fino al 1814. E poi dopo ci sono varie fasi, queste cose sono cose scelte di legge. Ecco, tra quelli che seguono il Papa in Francia c'è il cardinale Consalvi, che poi sarà il segretario di Stato dopo la restaurazione. Allora, che cosa? Quindi, quando c'è la restaurazione, lo Stato Pontificio viene riaggregato, quindi anche le delegazioni di Bologna e Ferrara fanno parte della restaurazione. Ecco, ma qui vedete, ci sono, come dire, due parti che rientrano nello stesso Stato, che hanno avuto invece nei primi vent'anni che precedono una storia differente, in particolare sul sistema di istruzione. Cioè l'Università di Ferrara è stata soppressa, a Ferrara c'era una scuola di specializzazione idraulica, creata nel 1804, l'Università di Bologna era stata in sostanza pareggiata all'Università di Pavia e cominciava ad avere un corpo insegnante anche giovane, vivace, e con persone anche importanti, come detto, no, il settore che conosco, anche credo anche lo stesso Rossi fosse avuto un insegnamento di storia dai giovani professori, e però quindi c'è, e quindi c'è il sistema di formazione della vita, mentre Roma ha seguito la Francia, quindi ha il sistema delle accademie, delle scuole. Poi, non so, a Torino c'erano tanti studenti della scuola politecnica del torinese che vanno a studiare in Francia, quindi gli ingegneri di Torino vengono in realtà formati in Francia. E in parte questo è un modo di dire, insomma, per quello che riguarda le figure emergenti anche in Toscana. Allora, veramente, esclusivamente la mia ignoranza, principalmente la mia ignoranza, io non ho conoscenza di ingegneri che vanno a studiare. Però ecco, bisogna dire che un po' Roma, dal punto di vista degli studi di ingegneria, è stata sempre un po' dipendente dalle legazioni. Sin dal periodo del Cinquecento, Bombelli va a Roma, nel Seicento, sono in genere tecnici che vengono da Bologna o da Ferrara anche, che fanno i grandi progetti anche nell'ambito dell'arte romano, cioè, senza contare che essendo cara, da tutta la cristianità, poteva la Chiesa avvalersi dei tecnici quasi tutti ecclesiastici che in questo periodo c'erano le parti, sono grandi, era a Pisa, grandi era Benedettino, quando aveva bisogno inviava in missione, cosa che faceva, le relazioni ma anche utilizzava. Però ecco, rimane questo fatto, che diciamo, pur essendo abbastanza interessante, come dire, l'intelligenza romana della fine del Settecento, però troviamo in questa, filosofi naturali, anche matematici puri, come Chartier, però ecco, i tecnici sono importanti. E questo, cioè, questo qui, diciamo, succede anche dopo, Allora, appunto, quindi a questa situazione complessa da riaggredire. E allora il cardinale Consalvi, penso con molto equilibrio, con molta, anche approfondimento, si muove appunto in questa direzione, cioè di cercare di prendere il meglio aggregando, ecco, queste due realtà sul piano anche della formazione politica. Ecco, da questo punto di vista, così astrattamente, al di là così di eventi politici particolari, si può dire che la continuazione appunto delle scuole del corpo degli ingegneri di acqua e strade di Milano e della scuola di acqua e strade non realizzata nel Regno d'Italia, invece vengono realizzate a Roma dopo la restaurazione. Allora, lo schema è lo stesso, cioè prima di tutto si crea il corpo. Bene, quindi allora la legge della, io lo dicerò, la legge del 23 ottobre del 1000, anzi in modo proprio per essere precisi, del modo proprio del 23 ottobre del 1817, crea appunto il corpo di acqua e strade. E anche delinea che ci deve essere una scuola, non universitaria, guardate bene, per la formazione di questo, degli ingegneri di questo. Allora, qui è piuttosto interessante, bisognerebbe fare, come dire, un'analisi comparativa di questo corpo di acqua e strade con il corpo, diciamo, di acqua e strade del Regno d'Italia. Perché è lì che è il riferimento principale, no? In quanto, come dire, siccome la situazione romana era intermedia per quella francese, diciamo, tra le due che erano venute fuori, il modello romano in qualche modo va confrontato, siccome il legame politico con la Francia perdute, siccome in realtà poi forse stanno anche abbastanza è quello che l'uniformità piuttosto va vista come l'identità, cioè con le parti appunto dello Stato Pontificio che avevano fatto parte del regno. Allora, io ho fatto questa comparazione per alcuni esempi. Diciamo, che cosa si può notare? Intanto il corpo e poi vediamo la scuola. Allora, il corpo, diciamo, c'è una maggiore, come dire, provincializzazione del corpo. Cioè, nel corpo di Acque Strade di Milano era prevista una struttura dirigenziale concentrata a Milano, di ispettori generali. Ecco, che faceva tutti i grandi progetti. A Roma, invece, nella riforma Consalvi, chiamiamolo così, c'è la figura dell'ispettore generale che fa i progetti, ma questi non sono con tutti a Roma. C'è la Roma, però c'è una Ferrara, c'è la Bologna, legati alla. Poi dopo si perde di vista anche una grossa come dire, conquista del periodo napoleonico, che era dovuto però a fatti politici, che era il fatto di aver visto i problemi del Po come un problema unico. Quindi la reazione di un magistrato per tutto il popolo. Allora qui invece prevale di nuovo la preoccupazione e quindi il problema del popolo non è visto più come un problema complessivo. Quindi porti, navigabilità, diciamo, scorrimento dei fiumi da qualunque parte di Milano. Mentre diciamo si ritorna a un maggiore provincialismo, maggiore se volete per usare il termine oggi. Federalistica, cioè, una struttura più federale di quella più meno centralizzata. E poi dopo c'è un'altra cosa molto importante, un'altra questione importante, cioè il tipo di retribuzione. Cioè, mentre gli ingegneri dello Stato Pontificio avevano uno stipendio alto e delle diarie basse, cioè loro erano pagati come funzionari, avevano uno stipendio alto, e poi dopo venivano praticamente coperte solo le spese. Invece nel sistema romano lo stipendio viene notevolmente abbassato, in compenso restano le diarie, quindi la parte, come dire, fluttuante, diciamo, dello stipendio aumenta tutto. Questo naturalmente significa anche, significa le cose che voi conoscete di me, cioè una serie di condizionamenti maggiori, quindi sono meno funzionali indipendenti. Tutte e due queste. Allora, oltre a questa legge, questo fatto proprio con Salvi, viene anche creata la scuola per il corpo di Acque, quindi per questo. Quindi viene previsto un sistema di formazione. Questo sistema è fuori dall'università, quindi è la prima creazione concreta di una scuola di Acque Strade. Nominano il direttore, ordinano i lavori di ristrutturazione, però fanno i programmi, però non parte. Questa invece parte, perché le scuole previste sono due, una a Ferrara e una a Roma. A Ferrara, dove c'era l'antica scuola di perfezionamento di Bonanni d'Italia, e a Roma. E queste due scuole, per la scuola di Ferrara ha una vita effimera, però è la prima che si attiva per un complesso di vita e dura due anni, dal 1817 e dal 1815. Il regolamento è lo stesso, cioè si prevede che, allora vediamo un po' i vari aspetti. Allora, intanto è un corso triennale, ci sono tre cattedre, una di geometria descrittiva, una di architettura statica e idraulica e una di idrometria. Il corso si articola in questi in tre anni e ogni professore quindi fa lezione per tre anni. Ci sono delle lezioni previste 4 giorni alla settimana, con esercizi 2 giorni alla settimana. Ogni giorno si fanno 3 ore di lezione, più ore di esercizio. E poi il lunedì è dedicato a esercitazioni soltanto. E il giovedì è dedicato alla posizione di problemi, cioè vengono posti dei problemi che loro devono risolvere. Amici. Il reclutamento come avviene? Cioè viene prescritto. Una teoria descrittiva, un'architettura statica ed idraulica, la testa di idrometria. Poi vediamo un po' di agganci anche con Milano, con la storia di allora, questo era l'accesso. Ecco, l'accesso era post-universitario, ma non post, diciamo, titolo universitario, nel senso che si richiedeva che loro avessero seguito con merito, quindi fossero stati promossi, in alcuni esami di matematica della facoltà matematica dell'università, o di una delle università. Ma non dovevano aver conseguito un titolo di studio, cioè non dovevano aver completato il corso di laurea. Quindi questo era la cosa. Però la scuola era autonoma dall'università, cioè aveva un suo direttore che poi viene preso, ancora secondo quella tradizione che vi dicevo, da delegazione. E il primo direttore è il professor Giuseppe Venturoni, che poi veniva da Bologna e che poi dopo sarà anche direttore per moltissimi anni. C'è anche un'attività scientifica, cioè gli ingegneri contribuisci le loro esercitazioni più importanti, le pubbliche, non ci sono dei volumi pubblicati nel 1820, 1822, intitolati appunto lavori degli ingegneri della scuola di Amsterdam. Quindi la scuola funzionava. Non solo, ma sono noti anche i docenti, che appunto uno viene da Ferrara dopo lo scioglimento della scuola ferrarese, ed è Carlo Sereni. Carlo Sereni, lui era, occupa il posto di geometria descrittiva, diventa professore di geometria descrittiva. Carlo Sereni, lui si era formato a Modena, la scuola militare di Modena, dopo aver studiato a Ferrara, lui era la provincia di Ferrara. E poi dopo pubblicherà alcuni libri importanti, appunto di geometria descrittiva, di geodesia, e diventa anche lui uno dei riferimenti romani. Il professore di idrometria è Bonaventura Benetti, su cui non so neanche io, se no appunto conosco qualche lavoro pubblicato in questi volumi umani, questi fascicoli umani, qui facevo notizie. Invece il professore di architettura statica e idraulica è un nome anche questo molto conosciuto, ed è Nicola Cavallini di San Berto, che ha pubblicato forse i libri più famosi e più diffusi, ha avuto tante edizioni a Modena, a Bologna. Ecco, Nicola Cavallini di San Bertolo aveva studiato prima liceo a Ferrara, poi aveva studiato a Bologna, perché l'università di Ferrara non c'era più, e a Bologna era diventato assistente di Guglielmini, quindi veniva da una formazione bolognese. Poi dopo, appunto, lui viene assunto come professore, e il professore di architettura statica. Anche lui poi è una persona nota nell'ambiente romano, e gran parte dei lavori idraulici di Roma, del primo 800, c'erano numerosi, soprattutto riguardanti l'acquedotto, la distribuzione delle acque, portano alla firma di Nicola Cavallini. Ecco, quindi c'è un quadro. Per inciso, diciamo, in questo periodo viene completata l'opera iniziale nel periodo napoleonico di studio sulle paludi continue, che era stata appunto del genere di uno dei grandi, l'altro conosce bene, Romino, legatissimo. Uno dei grandi ingegneri napoleonici, che appunto era stato incaricato di fare un piano sulle paludi continue. Questo piano viene pubblicato nel 1822, quindi diciamo già questa versione da un tempo. Ecco, che cosa succede? Che io poi non ho studiato tutto il periodo condiviso, ma come dire, il passaggio dalla situazione imperiale d'Italia alla, come dire, normalizzazione del periodo condiviso, che anche dal punto di vista istituzionale poi c'è, quindi in generale c'è un cambiamento che si realizza intorno al condiviso, non più segretario di Stato, c'è una stretta di vita di questa relazione dello stato condiviso. Non è tanto questo che ci interessa, la cosa che invece ci interessa di più è la riforma dell'università del 1824, la famosa quadra di Vienna e Sapienza, che ha avuto poi una vita molto lunga, ecco, ha regolato sempre l'ordine XII, ha regolato sempre l'insegnamento, e mi diceva poi anche per certi aspetti, anche dopo l'unità di Dante, quindi infatti è un modo curioso anche da loro. Quindi questa connessa a questa riforma dell'insegnamento c'è una riforma anche della scuola del 1826, che in parte diciamo una serie di norme, l'ordinazione se sa che con le dedicazioni su studiorum, sempre di Leone XII, del 18 agosto 1826. C'è una specie, come dire, di appendice, di forma regolamentare da parte, giubilazioni, come si chiama, pensioni, cancellieri, ecco. Però, ecco, a parte questa, come dire, norme così di regolamento, è molto importante per la scuola di ingegneria. Perché? Per due motivi. Uno, perché prescrive che l'accesso alla scuola degli ingegneri non possa avvenire se non dopo che questi hanno avuto un titolo accademico, un intero corso compiuto nelle università. Secondo, perché le scuole per ingegneri, la scuola degli ingegneri perde l'autonomia, ma viene invece aggregata all'università. Quindi diciamo il periodo, come dire, di autonomia, che io sappia, è l'unico periodo di reale diciamo, organizzazione della scuola di ingegneri fuori dall'università, diciamo, cessa nel 1826. Quindi con questa, diciamo così, normalizzazione che anche riconduce questa scuola nell'ambito del sistema universitario. Direi che diciamo questa qui forse è l'unica, se ci sono cose da fermare qui, se c'è una cosa. Io ringrazio appunto Luigi Pepe che in un certo senso ha richiamato anche l'attenzione su un aspetto che in fondo ieri era rimasto, diciamo, sotto i margini dei nostri lavori, vale a dire i progetti, le discussioni sui progetti del piano rivoluzionario, no? Che invece appunto ieri, badando molto, diciamo, i risultati effettivi, noi avevamo passato un pochino. Ma chiedo scusa, purtroppo io sono tornato tra le due, quindi faccio un pochino, state sotto, grazie. E quindi lo ringrazio per questo. Per questo primo punto e poi anche perché insomma ci ha illustrato un pochino le vicende appunto romane e dei territori pubblici che in qualche modo appunto erano già state richiamate ieri come esempio importante, no? Della traduzione di questo famoso modello francese, così anche su questo appunto ci sarebbe tanto da dire, le sollecitazioni sono state davvero tante. E io proporrei. Posso dire solo una cosa, cioè facendo la storia di questo periodo. Bisogna tenere conto che il creatore della scuola politecnica, Gaspar Monge, è stato 2 anni in carica. Non c'è stato come turista, diciamo, c'è stato prima come consigliere di Napoleone e poi come diciamo, costituzionalista, cioè come creatore della scuola della Costituzione della Repubblica. Io proporrei appunto adesso di continuare nelle relazioni e poi di fare una discussione generale alla fine. Non so cosa ne. Facciamo anche qualche un po' di discussione rapida e immediata, se uno c'è, se no, domande immediate uno poi se viene aperto in vista, poi se uno invece vuole presentare una posizione diversa, di tipo interpretativo, questo lo fa alla fine, no? Se uno ha qualche domanda, qualche chiarimento, poi allora decidiamo appunto che dedichiamo un quarto d'ora a questo primo anno. L'unico problema è che per le 12:30 abbiamo una prenotazione pranzo e quindi è previsto. Quell'ora e quindi per quell'ora lì dovremmo aver concluso i nostri lavori. Quindi io direi allora che 10 minuti, un quarto d'ora si possono essere riservati diciamo ad un 5 minuti domande. Però se non volete qualcosa dice. Io avrei proprio un po' di domande, ma è un personaggio un po' difficile da lettura, no? Volevo sapere che è carrarese, viene da Veneto, non si sa se viene. Non sono lui. No, appunto, la cosa mi interessava, perché se viene da Venezia, potrebbe essere, cioè, qualche altro gatto per il tipo, invece, Venezia, papà, ed è il secondo io che fare una squadra di Venezia. Che non era siccome ci sono delle dinastie, no? Anche anche per esempio, la devo dire che non ho neanche cercato, però non ho appunto anch'io, vabbè, perché anche su Venezia, poi geograficamente sono molto poco, anche per Colombia, tante cose, però yeah.